l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale legato all'Europa con Euronet.eu, il network al quale apparteniamo. Diamo voce all'Europa, lo facciamo con tante altre radio, con tante altre lingue, cerchiamo di respirare un po' quella che è la cultura europea. Radio 24 quotidianamente segue ovviamente la politica, l'economia, tutto ciò che arriva dall'Europa e che tanto coinvolge la nostra quotidianità. Noi siamo qua e cerchiamo il sabato anche altre sfumature, anche altre Europe. 349-238-6666 per i vostri sms in diretta, oppure ci trovate su Facebook, facebook.com/l'altra Europa, la nostra pagina che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni sabato un viaggio, quello di oggi sarà un viaggio molto particolare, un viaggio alla scoperta delle lingue minoritarie d'Europa. Leo, cosa stiamo ascoltando? Stiamo ascoltando The 15 Pence, che è un gruppo che ha partecipato qualche edizione fa del Liet International Festival, il festival delle lingue minoritarie che stiamo per presentare a Udine la prossima settimana. E in che lingua canta? Cantano in basso tedesco, che è una lingua che sta al nord della Germania, viene parlata da poche centinaia di persone al nord della Germania. Tanta musica e tante lingue oggi all'altra Europa, e con me in studio Leo Virgili. Ciao Leo, benvenuto. Ciao, direttore artistico di questo festival di cui tanto parleremo, e con lui do il benvenuto anche a Federica Angeli, collaboratrice scientifica dell'Agenzia Regionale della Lingua Friulana, giusto? Ciao, buongiorno. Okay. Tu sei un po' la referente per questa agenzia, si parla di lingue minoritarie, di questo mondo vivissimo, esatto, all'interno dell'Europa. Esatto, un mondo molto più vivo di quanto magari ci si possa aspettare, perché i parlanti sono molti milioni e per cui sono molto vivi anche, come dimostriamo qui, artisticamente. Abbiamo una bella varietà che sentiremo oggi in radio e che mostreremo nella nostra città la prossima settimana. Liet è il nome di questo festival. L'origine del festival, Leo, che cos'è, perché è nato, dove si tiene? Perché è una cosa, credo, sia la prima volta in Italia. Sì, è la prima volta che si tiene questo festival, che è un festival migrante, perché ogni anno viene organizzato nella capitale di una lingua minoritaria differente. Nelle varie edizioni si è susseguito in Bretagna, varie edizioni sono state fatte in Lapponia. Il festival però è nato in Frisia, nel cuore dell'Olanda, centro-nord dell'Olanda, dove appunto si parla la lingua frisona, e Liet vuol dire proprio canzone in lingua frisona. Siccome sono stati loro nel 2002 a proporre la prima edizione, il festival ha sempre mantenuto questo nome. Fantastico, insomma è un viaggio anche veramente in termini, in lingue che di cui si è sentito parlare ma poi di fatto nulla si sa, no? E per chi parla di Europa, per chi vuole raccontare una cultura europea, cioè si passa attraverso la lingua, cioè fare cultura europea non è solo l'inglese, non è solo il francese, ma la cultura europea è puntellata da tutte queste realtà. Esatto, infatti proprio anche l'Europa stessa, da un punto di vista giuridico, amministrativo, punta anche al riconoscimento di queste lingue altre, che ci permettono anche di entrare proprio più in contatto con chi poi l'Europa la fa, chi la vive, che siamo insomma un po' tutti noi. Per cui abbiamo queste realtà che vanno da minoranze forti, strutturate, come la minoranza catalana, a altre realtà estremamente minori, ma con un grande desiderio comunque di affermazione e di riconoscimento. Presenteremo poi il festival con queste, è un concorso, sono una sorta di proprio di concorso, no? Quello è un po' il pretesto, certo, per avere gli artisti su quel palco, e abbiamo raccolto un po' invece dei brani che si sono susseguiti nel concorso in questi anni, e faremo un viaggio in Europa con queste musiche. Partirei proprio dalla Lapponia. Cosa ci proponete dalla Lapponia? Certo. Vi proponiamo un gruppo molto interessante, anzi un artista che si chiama Nico Valchepè. Questo brano ha vinto una delle ultime edizioni, anzi neanche proprio delle ultime, 4-5 anni fa, nel 2006 se non sbaglio, si è affermato per, proprio per essere un brano interessantissimo, da una sonorità molto coinvolgente, molto mistica, come poi in realtà sono proprio questi posti e questi paesaggi della Lapponia. La lingua è il Sami? Sto il Sami, sì, sì, sì, il Sami, che è una lingua internazionale, cioè nel senso si parla in realtà in tutto il territorio lapone, perché si parla sia in Norvegia che in Svezia che in Finlandia, che addirittura in Russia ci sono alcuni rappresentanti. So, voi, tutte queste lingue voi le masticate? No, no. Certo, le parliamo correntemente tutte contemporaneamente. Esatto. Perfetto, ok, andiamo in Lapponia, questo è il Sami. Tankielis mailmis Tuolla vakau pomaka Dalla Lapponia a Udine, questo è il Sami, www.liete.nl, questo è il sito ufficiale dove potete anche avere un assaggio dei brani in concorso, ma parleremo ancora del festival, ora ci fermiamo, un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando e poi ancora l'altra Europa. Europost-it. Euro Disney. Stai cercando un lavoro per la prossima estate? Sei maggiorenne e parli sia l'inglese che il francese? Disneyland Paris sta cercando, come ogni anno, migliaia di giovani per lavorare nel più grande parco tematico d'Europa. Le selezioni sono già cominciate, ma niente paura, sei ancora in tempo. Carica la tua candidatura su internet e aspetta la fatidica chiamata. I prossimi colloqui si terranno a Roma e a Palermo da novembre a gennaio. Per saperne di più, visita il sito disneylandparis-casting.com. Liete International, il festival musicale delle lingue minoritarie, dal 17 al 26 novembre, questo programma ricchissimo, il festival in particolare sarà sabato sera al Teatro Giovanni da Udine, appunto ad Udine. E cosa stiamo ascoltando in questo momento, Leo? Questa è Prisca, quella che presentiamo orgogliosamente come rappresentante friulana al festival quest'anno. Ma è friulano quello che stiamo ascoltando? Sì, sì. Insomma, anche perché non è facile, uno parla di lingue europee, ci sono assonanze anche che ti portano, no, fuori dai nostri confini, ma questo è anche il bello dell'Europa. Ad esempio per noi friulani è interessante quando andiamo in Catalogna e tra noi parliamo friulano regolarmente, e regolarmente ci chiedono: ma catalani di dove siete? Perché riconoscono nel nostro friulano comunque una similitudine con la loro lingua. Prima Federica hai accennato al fatto che appunto dall'Unione Europea ci sono finanziamenti, c'è proprio ci sono programmi per tenere vive queste lingue. Esatto, ci sono programmi, ci sono indirizzi, ci sono programmi che partono dall'Europa e poi ci sono anche che poi hanno delle ricadute statali, per così dire, no? Per cui anche noi qui in Italia abbiamo tutta una serie di lingue riconosciute che possono godere di alcuni finanziamenti per realizzare dei progetti poi reali, per portare appunto le lingue nelle scuole in primis, ma anche all'interno della pubblica amministrazione, dei media e nella vita quotidiana, rendere normale l'uso di una lingua, insomma. Questi sono alcuni dei tasselli importantissimi che fanno l'Europa, tasselli che raccontiamo con Euronet a Radio 24, tasselli che vengono raccontati anche da Press Europe, presseurope.eu, il portale che propone una rassegna stampa quotidiana del meglio della stampa straniera, della stampa europea. E abbiamo con noi proprio Gian Paolo Accardo, amico dell'altra Europa e condirettore di Press Europe. Ciao Gian Paolo. Buongiorno. Voi traducete anche dalle lingue minoritarie, non credo? No, per ora traduciamo da, diciamo, dalle lingue maggioritarie o anche da lingue un po' curiose, come ci è capitato di tradurre dall'indi, ma insomma no, le lingue minoritarie europee non ancora. Tanto Giampaolo, ogni volta mi viene la tentazione di fargli quiz sulle testate europee, perché le conosce tutte, anche le più piccole, quindi è sempre un bel gioco. Giampaolo, però oggi stiamo parlando di piccole lingue, ma invece volevo parlare con te delle grandi lingue e soprattutto di come l'Europa sta reagendo, sta guardando la situazione politica italiana in particolare, situazione politica che sta variando di ora in ora, e l'Unione Europea è anche questo, vedere, no? Siamo avere una sorta di specchio da fuori. Hai dato un'occhiata un po' all'Italia ancora sulle prime pagine dei quotidiani europei, e soprattutto che Italia sta uscendo, che Italia viene raccontata. Chiaramente l'Italia era sulle prime pagine dei quotidiani europei, diciamo, per tutta la settimana, è stata proprio la grande attualità della settimana, e le prime pagine dei giornali europei negli ultimi giorni hanno oscillato tra l'evento principale, che è stata quella che viene definita la caduta di Berlusconi, e l'influenza della situazione economica italiana sull'euro, sulla tenuta dell'euro, e poi le speranze che nascono dalla nascita di quello che ormai i giornali europei considerano come il molto probabile futuro governo Monti, che dovrebbe risollevare le sorti dell'Italia. Abbiamo per esempio quasi tutti i giornali fino a ieri avevano delle foto di apertura con un Berlusconi abbattuto, per esempio ABC, un quotidiano spagnolo, parlava dell'Italia che avvicina l'Europa al baratro, La Tribune, un quotidiano economico francese, parlava di Italia che mette il fuoco, che incendia la zona euro, il Dagens Nyheter, un quotidiano svedese, oggi pubblicando peraltro la stessa foto di ABC, un Berlusconi che si copre gli occhi, parla dell'ascesa e della caduta di Berlusconi. È il País, quotidiano spagnolo di oggi, titola sull'Italia che chiude l'era Berlusconi con il piano di austerity dettato dall'Unione Europea. Il Parlamento, continua il País, voterà oggi i tagli approvati dal Senato ieri, e Monti è stato accolto in Senato con un'ovazione. Pubblico, un quotidiano portoghese, oggi ha di nuovo Berlusconi in apertura, titola Berlusconi sulla via dell'uscita, Mario Monti verso il potere, il Senato approva l'austerity, e la questione del debito è prioritaria. Quindi insomma mi sembra di capire una lettura comune di fatto dell'Europa nei confronti del nostro paese in queste ore. Sì, dell'Europa, ma non solo. Per esempio il settimanale americano Time Magazine, nella sua edizione europea, pubblica in prima pagina una grande foto di un Silvio Berlusconi sorridente, e poi con un titolo invece molto più incisivo, l'uomo dietro all'economia la più pericolosa del mondo, sottotitolo come il primo ministro uscente è riuscito a mettere in pericolo l'Unione Europea e perché non è dispiaciuto per questo. Giampaolo, usciamo un attimo invece, lasciamo da parte l'Italia, ci sono un altro paio di notizie che hanno occupato le prime pagine in questi giorni, che secondo te più di altre rappresentano il momento? Sì, chiaramente l'altro paese di cui si parla molto in questo momento in Europa è la Grecia che si è dotata ieri di un governo interinale, e per esempio l'evento naturalmente sulle prime pagine di tutti i giornali, e il quotidiano economico Katimerini riassume bene lo stato delle cose titolando sul governo interinale che dovrà affrontare la crisi. Il governo formato dai tre partiti, con l'ex banchiere centrale Papademos alla testa, dovrà mettere al sicuro realizzare il piano di emergenza, di finanziamento di emergenza della Grecia, e rimettere il paese sulla via del risanamento. E in prima pagina viene pubblicata una grande foto abbastanza curiosa, nella quale si vedono il primo ministro e i principali ministri giurare con le mani su una Bibbia davanti al capo della Chiesa ortodossa greca. Questo per ricordarci che insomma la Grecia non è esattamente uno stato laico, e che l'evento più importante nella formazione di un nuovo governo è il giuramento sulla Bibbia. Perfetto. Giampaolo Agardo, ricordiamo su Press Europe quotidianamente il meglio della stampa estera. Adesso la domanda te lo faccio: Isole Faroe, hai qualche quotidiano da quelle parti? No, ecco, ha incastrato. No, non ti saprei dire, ti posso dire un lettone se vuoi, ma non... Mi avevo bisogno di qualcosa da fare, perché stiamo andando là e... e sapevo che non avresti saputo, quindi era così, per coglierti in castagna. Grazie come sempre Giampaolo, sei stato efficace per averci fotografato la situazione europea. PressEurope.eu. Ciao e buon sabato, grazie davvero. Anche voi, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. E andiamo invece alle isole Faroe, ci andiamo insieme a Leo Virgili e Federica Angeli dell'IET International Festival. Isole Faroe, cosa ci avete portato da là? Tanto ricordiamo dove sono. Sono delle isole molto a nord, sperdute nel mare del nord, delle isole di dominazione danese, anche se in realtà hanno un livello di autonomia e di indipendenza abbastanza avanzato, e ci sono meno di 100.000 parlanti questa stranissima lingua ugrofinica. Insomma. E il brano che andiamo a ascoltare, che cos'è? Il brano è il vincitore dell'edizione dell'IET 2010, per cui i vincitori dello scorso anno che hanno convinto la giuria, hanno conquistato con le loro sonorità, sentirete veramente particolari. Conoscete anche il testo? Il testo così, a memoria. No, ok. Ecco, noi ci facciamo prendere dalle sonorità, insomma, siamo alla ricerca di sfumature, di emozioni, questa è l'Europa che ci piace raccontare. Ecco, no, non li vedrete a X Factor, potrete vederli sicuramente all'IET International, questa band dalle isole Faroe, molto... Cioè, suoni profondi, duri, gutturali. Certo, certo. Sono un gruppo molto particolare che suona principalmente strumenti autocostruiti. Sono soliti provare in una ex officina meccanica e sono un gruppo veramente interessante. Questo perché l'IET International si propone proprio di promuovere in ogni senso la diversità ed è contro l'omologazione, non soltanto delle lingue ma anche dei generi musicali, e quindi proprio per questo spesso ad affermare a vincere questo concorso sono proprio gruppi molto strani, molto particolari, molto inediti. Spesso l'IET International viene paragonato al più blasonato Eurovision Festival, in realtà però la differenza principale è proprio questa, il tentativo costante di andare contro l'omologazione linguistica e stilistica. Le altre lingue all'altra Europa, www.liete.nl, il sito l'abbiamo già linkato nelle nostre pagine in Facebook. Un Europost-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Servizio volontario europeo, un'occasione per viaggiare e rendersi utili. Sei un giovane tra i 18 e i 30 anni e hai voglia di vivere un periodo all'estero per imparare la lingua e dare una mano a chi ne ha bisogno? Il servizio volontario europeo è l'esperienza che stai cercando. Ce n'è per tutti i gusti. Ti potresti ritrovare in una fattoria biologica in Islanda, in una galleria d'arte povera a Lisbona, in una ludoteca a Tallinn o nella cucina di un asilo nido di Montpellier. Ti verrà offerto vitto, alloggio e argent de poche. Che aspetti? Cerca il link al database delle associazioni ospitanti sul sito scambieuropei.com. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Quelle che state ascoltando sono alcune delle musiche estrapolate da questi anni di Liete Festival, il contest delle delle lingue minoritarie, dell'arte tradotta dalle lingue minoritarie. Sono canzoni nelle lingue minori d'Europa che si ritroveranno sul palco il 19 di questo mese a Udine in una serata con una dozzina di artisti, se 12, non è 12 sì, artisti. Con me in studio Leo Virgili, che è il direttore artistico del festival, e Federica Angeli, che è collaboratrice scientifica. Cosa stiamo ascoltando in questo momento? Stiamo ascoltando una band in realtà italiana, perché sono il Peppa Marriti Band, lingua arbresh, quindi l'antico albanese che si parla al nostro sud. Campania e Sicilia sono le zone dove potete ascoltare questa lingua. È l'Europa è anche questa. Euronet.eu è il portale dove potete ritrovarci, oppure su Facebook stiamo linkando, c'è cioè il sito, che non è solo un festival, cioè sarà una settimana intensa, una settimana di eventi ricca. Perché accanto alla serata, al main event, insomma, del 19 novembre, abbiamo pensato di offrire alla città e a tutti la possibilità di conoscere meglio i gruppi, perché suoneranno in più concerti sul territorio, ma anche poi organizzare presentazioni di libri, mostre fotografiche, teatro, in questo caso nelle lingue del Friuli. Per cui offriamo veramente una settimana ricca, e la settimana successiva ci spostiamo dalla musica al cinema, perché ci sarà sempre a Udine la seconda edizione di una mostra dal cine nelle lingue d'Europa, 22 film in 8 lingue diverse. Ecco, sottotitolati? Certo. In quale lingua? Sono tutti in lingua originale, con i sottotitoli in italiano e inglese. Okay. E friulano, naturalmente. Oh, ovviamente, scusami, perché... comunque... Un po' di sano campanilismo. Okay, benissimo. Questo è il festival, altre sonorità, l'altra Europa, ma anche l'Europa che ci piace raccontare. Prima è stata citata la crisi greca, e volevamo tornare in Grecia, in particolare dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio particolare, che è quello dell'isola di Naxos. Abbiamo già conosciuto il collaboratore dall'isola del quotidiano Tovima, e diamo il ben ritrovato ad Athanasis Karavias. Ciao Athanasis. Ciao, buongiorno a voi tutti. Buongiorno, come state? Come voi che siamo? Stiamo male, perché la crisi economica e tutto ciò che succede ci ha demoralizzato. Allora, Athanasis, ci siamo sentiti 2 o 3 settimane fa, appunto, dove ci raccontavi, no, quello che stava accadendo in Grecia, in particolare sull'isola di Naxos, su questo ritorno alla terra, all'allevamento come ultimo faro di sopravvivenza, e ci parlavi anche di un pessimismo diffuso. Siamo voluti tornare da te oggi perché qualcosa è successo questa settimana, un nuovo governo in Grecia, una nuova ventata di ottimismo, o la situazione è sempre buia? Dunque, certamente c'è un ottimismo, c'è un filino di speranza, però la gente soffre, perché ci sono ritagliati sia sui salari che le pensioni il 30%, e ci sono tasse dappertutto, tasse sugli immobili, tasse comunali, tasse. La gente, sai, ha programmato una vita, e così all'improvviso tutto questo va per aria. È una politica finanziaria sbagliata. La Grecia deve diventare più produttiva, più competitiva, i politici meno ladri, lo Stato più economico. La gente parla di queste cose ormai. Chiaro, hanno fatto un governo di coalizione forzato, perché questi erano gli ordini dai comandanti europei. Ad ogni modo, anche in questa situazione, la speranza muore per ultima, diciamo. Ecco, perché l'economia non è di prendere le tasse, l'economia è di produrre tutti insieme, e di riuscire a capire che non si può buttare sul mare la fatica e il lavoro della gente. Ok, capiremo se davvero questa può essere una nuova Grecia. Αποδέχτηκα την εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας μετά από πρόταση των πολιτικών αρχηγών να σχηματίσω κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας. Επειδή πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κρίσης και στην ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. Lui è Lukas Papademos, il nuovo primo ministro greco. Thanasis, dalle sue prime parole, cosa ha detto? Come ha convinto la nazione? Katarchin Abemus Papademos è una persona molto importante, anche voi in Italia lo sapete, è uno scienziato, è un economista grandissimo, era il vicepresidente della Banca Centrale d'America, ha lavorato in Europa e nella Banca Centrale Americana, è un ingegnere meccanico, elettronico, elettrotecnico, un professore di economia, è un cranio, però non basta essere geni, è la miglior persona che attualmente può mettere la Grecia nel gioco. È un uomo calmo, è un uomo molto sapiente, gli europei lo vedono bene, è una nota di ottimismo evidentemente, ma sai come anche in Italia la situazione è arrivata a questo punto per gli sbagli che hanno fatto i politici tutti questi anni, non è facile che un uomo geniale possa rimettere tutto a posto così in poco tempo. Ci vogliono anni per riuscire ad essere quelli che eravamo anni fa. Thanasis, questa è un'analisi, ovviamente, una lettura un po' generale. Torniamo invece sulla vostra isola. Su Naxos. Su Naxos, novembre. Dimmi. Volevo dire anche se lo saprai, che Naxos era presente anche sulla Lombardia, perché c'è un bellissimo paesino sul lago di Como che si chiama Nesso. Dunque, Nesso è una parafrasi di Nasso, cioè Naxos, e questo è scritto nel comune. Io quando sono stato lì sono andato a vedere un po' e con grande sorpresa ho visto che Nesso non è altro che una piccola colonia di Naxos, come esiste anche un Naxos in Città Giardini, Naxos Giardini, certo. In Sicilia. In Sicilia, sì, quello infatti lo conoscevo, invece quello sul lago di Como no. Dei legami. A Naxos ti dirò, la crisi non è sentita molto, perché Naxos è un'isola produttiva, cioè agricoltura, pastorizia, certo. A pesca, a del marmo, a del turismo, e quindi la crisi non è sentita, però non vuol dire niente, se noi stiamo un po' benino gli altri soffrono. Ok, quindi e com'è il novembre a Naxos? Novembre ti dirò, quest'anno non è stato come al solito, che è un tempo splendido, che si può fare i bagni al mare, più tranquillo che l'estate, che c'è tutti i giovani qui che si divertono, è un po' cambiato il clima, però adesso la gente si occupa di raccogliere le olive, perché è il periodo che raccogliamo le olive, perché abbiamo un'ottima produzione di olio eccellente, si è fatto il vino, adesso cominciano i pastori ad avere i piccoli anellini, i capretti, quindi adesso in campagna c'è vita. Ok, insomma, è una bellissima immagine quella che ci hai descritto. Grazie davvero Thanasis, buona, insomma, in bocca anche al lupo per tutto, ci ritroveremo presto. Sempre a vostra disposizione, sarò molto contento, vi invito di venire qui, che la passeremo molto bene. Mal che vada andiamo appunto sul lago di Como. Ciao e grazie, buon sabato. Buona ciao ciao. Arrivederci. Assume the lunch, the vent. Ciao te ma tu fortitude. A minus confusion. Guardi te veri sign to time. Ciao te ma ciao tu fortitude. Ancora musica in questa puntata particolarmente sonora dell'altra Europa, con le altre lingue appunto cantate, musicate. Questa che cos'è, Leo? Sono i Ciao da Fo con un brano che si chiama Cartulina, un brano che a me, Federica, piace molto. È un gruppo romancio del cantone di Grigioni che canta in retto romangio, questa antica lingua che si parla nel cuore della Svizzera, e sicuramente qua in Lombardia ne sapete qualcosa, insomma. Questa è l'altra Europa, ci fermiamo, un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, e poi ancora qua. Europost-it. Un mondo a colori. Un concorso per celebrare la giornata della non violenza e del dialogo. è riservato agli studenti degli istituti secondari e ai giovani di età non superiore a 30 anni che frequentano i corsi di italiano degli istituti italiani di cultura o studiano la lingua italiana presso le università all'estero. Per partecipare bisogna scrivere un elaborato sui temi della convivenza, dell'integrazione e del confronto tra culture e religioni diverse, ispirandosi anche ad esperienze dirette con i compagni di scuola. Si possono vincere 4 borse di studio da 500 euro. La scadenza è il 31 dicembre. Trovate tutto su progettodialogo.it. Continua la nostra particolare playlist oggi all'Altra Europa. Cosa stiamo ascoltando ora? Stiamo ascoltando un brano irlandese di questa cantautrice Oifi Scott, che insomma in Irlanda ha un buon successo anche perché proviene da una famiglia storica della musica irlandese, per cui per noi è un'assoluta novità, mentre dalle sue parti è già affermata. Sta uscendo il suo primo CD e il brano entra a pieno nella tradizione della musica irlandese, però insomma sembra essere divertente. Europa è in musica, adesso invece è il momento Euronet. Come sapete, ogni settimana scegliamo un argomento comune, ogni radio appartenente al network poi porta il proprio contributo. Questa settimana si parla di medicine. A spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down. Troppe medicine, in particolare troppi antibiotici, un vero abuso di antibiotici, tanto che il 18 novembre sarà questa giornata europea della consapevolezza appunto sull'abuso degli antibiotici e delle medicine in generale, per capire il perché è un problema, per capire quelle che sono le politiche anche comunitarie in questa direzione. Su questo argomento abbiamo invitato la dottoressa Annalisa Pantosti del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Buongiorno. Abbiamo un po' sdrammatizzato con Mary Poppins, perché insomma questo abuso di pillole aveva bisogno di un tocco di leggerezza, ma invece il problema è ben più serio. Il problema ha sicuramente iniziato a preoccupare l'Europa, che considera la resistenza agli antibiotici una delle principali minacce alla salute dei suoi cittadini. E questo perché? Perché gli antibiotici sono dei farmaci preziosissimi che hanno contribuito molto all'avanzamento della medicina moderna e sono dei farmaci insostituibili. Purtroppo ora i batteri, che sono diciamo il bersaglio di questi farmaci, stanno diventando resistenti a questi farmaci, a questi antibiotici. Questo vuol dire che nel momento in cui servono, gli antibiotici rischiano di non funzionare più come dovrebbero, quindi di non curare più le infezioni. E questo è dovuto in gran parte allo stesso uso di antibiotici. Ma questo è un approccio culturale sbagliato? Ci hanno fatto capire che è sempre meglio una medicina al primo problema? Sicuramente, soprattutto gli antibiotici, che sono stati veramente considerati il farmaco magico per qualunque condizione e per qualunque problema. Bisogna ricordare invece che gli antibiotici, proprio per la loro funzione, uccidono solamente batteri, quindi innanzitutto sono inefficaci nelle infezioni causate da virus, ad esempio le infezioni banali, respiratorie, che tutti abbiamo d'inverno, dal raffreddore all'influenza non complicata. E questo si è visto, è proprio uno degli usi maggiori e degli abusi maggiori degli antibiotici. Ecco, ma è ogni nazione così o c'è differenza da stato a stato? Ci sono nazioni che sono più propense appunto a cercare rifugio compulsivo nell'antibiotico? L'Europa in questo ha fatto molto, perché ha messo insieme quelle che erano diciamo le sorveglianze, gli studi fatti nei vari paesi europei per un confronto. sia per quanto riguarda l'utilizzo, la quantità di antibiotici che vengono consumati, sia per quanto riguarda questo problema delle resistenze. Devo dire che purtroppo i paesi non sono tutti uguali, perché forse proprio per ragioni culturali i paesi del nord Europa, i paesi scandinavi in particolare, hanno sia un basso consumo di antibiotici sia ovviamente parallelamente un basso livello di questo problema dell'antibiotico resistenza. Andiamo molto male noi paesi del sud dell'Europa e l'Italia in particolare, in questo sia il consumo di antibiotici è molto elevato e sia l'antibiotico resistenza è un fenomeno già molto importante. Abbiamo pubblicato nelle nostre pagine in Facebook un paio di link, tra i quali c'è anche un gioco per bambini dove insomma si cerca di educarli fin da piccoli a un uso consapevole, comunque a una conoscenza consapevole del significato e del come e quando usare le medicine, anche se questa è una cosa ovviamente da adulti. E un ultimo messaggio, dottoressa, sulla giornata, cioè qual è il messaggio proprio da donna della strada, nel senso, se lei incontra qualcuno per strada mentre fa la spesa, qual è il consiglio che si sente di dare? Noi abbiamo tre regole, questa giornata per il pubblico generale si può riassumere in tre regole: gli antibiotici non vanno usati per le infezioni virali, gli antibiotici non vanno mai presi senza prescrizione medica e se c'è la prescrizione medica non bisogna mai interrompere la terapia ma seguire le istruzioni date dal medico. Perfetto, grazie davvero in bocca al lupo per la vostra attività. Grazie, buongiorno. Buon sabato. Futurista, calma, enredata in spiral. E chiudiamo questa puntata in galiziano, vero? È questa in galiziano, sì, con Narf, un artista molto interessante che partecipò nel 2006 con questo brano che si chiama Santiago, che è proprio il brano che parla della sua città. Perfetto, un grazie a Leo Virgilio e a Federica Angeli che sono stati qua con me. Festival che potrà essere seguito anche in streaming, vero? Esatto, da internet? Esatto, potrà essere seguito in streaming, basta collegarsi al sito appunto liet.nl e soprattutto anche il pubblico potrà votare il proprio brano preferito sempre su internet, per cui invitiamo tutti a seguirci e a dare la vostra preferenza. Perfetto, ci salutiamo in friulano, come ci si saluta? Mandi. Benissimo. Mandi a Duccia, io di sì. La sapevo anch'io. Grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia, un grazie a Margherita Ina che con me ha scritto la puntata insieme a Viola Frifa, Peter Bescapè oggi alla parte tecnica, Giorgio De Luca in assistenza, voi in ascolto, radio24.it e Facebook se volete trovarci in rete. Ancora ciao da Federico Taddia. Non me vi udo ben davanti.